Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Sebbene scorra dal piede di Vishnu e attraverso i capelli di Shiva, il Gange non è un fiume antico. La geologia, che vede più lontano della religione, sa di un tempo in cui non esistevano né il fiume né l'Himalaya che lo alimenta, e un oceano copriva i sacri luoghi dell'Indostan. Sorsero le montagne, i loro detriti ostruirono l'oceano, gli dei vi posero la loro dimora e architettarono il fiume, e l'India, che noi chiamiamo immemorabile, nacque alla vita. Ma l'India è realmente molto più antica. Nei giorni dell'oceano preistorico, la parte meridionale della penisola già esisteva e gli altopiani della Dravidia erano terra da che la terra aveva avuto principio e avevano visto da un lato sprofondare un continente che li univa all'Africa e dall'altro sorgere l'Himalaya dal mare. Sono più antichi di qualunque altra cosa al mondo. Nessun'acqua li ha mai coperti e nel loro profilo il sole che li guarda da tempi immemorabili può ancora scorgere forme che gli appartennero prima che il nostro pianeta fosse strappato dal suo petto. Se c'è un luogo dove si possa toccare la carne della carne del sole è proprio questo, tra l'incredibile antichità di questi monti. Tuttavia, anche loro stanno mutando. Mentre sorgeva l'India himalayana, quest'India, la primeva, si è appiattita e adesso sta lentamente rientrando nella curvatura della Terra. Può darsi che nei futuri millenni un oceano scorrerà anche qui e coprirà di melma le rocce nate dal sole. Intanto la valle del Gange se le mangia quasi come un'erosione marina. Esse stanno sprofondando sotto le terre più nuove. La loro massa centrale è intatta, ma gli avamposti sul margine sono stati mutilati e stanno infitti sino alle ginocchia, sino alla gola, nel suolo che incalza. C'è qualcosa di inesprimibile in questi avamposti. Non somigliano a nient'altro al mondo e a gettare uno sguardo su di loro si resta senza fiato. Balzano su a picco, pazzamente, senza le proporzioni rispettate altrove anche dai monti più selvaggi. Non hanno rapporto con nessuna cosa che si possa sognare o vedere. Definirle sovrannaturali suggerisce l'idea degli spettri, e loro sono più antiche di ogni spirito. L'induismo ha graffiato e intonacato qualche roccia, ma i santuari sono deserti, come se i pellegrini, di solito in cerca dello straordinario, qui ne avessero trovato fin troppo. Alcuni santoni si erano un tempo stabiliti in una grotta, ma ne furono stanati, e perfino Buddha, che deve essere passato di qua scendendo verso l'albero dell'illuminazione, rifuggì da una rinuncia ancora più totale che la sua, e non ha lasciato nessuna leggenda di lotta o di vittoria nel Marabar. Le grotte sono presto descritte. Una galleria lunga 2,5 metri e larga quasi 1 metro conduce a una sala circolare di circa 6 metri di diametro. Questo schema si ripete lungo l'intera catena montuosa. E questo è tutto. Questa è una grotta Marabar. Dopo averne visto una, averne viste due, averne viste 3, 4, 14, 24, il visitatore torna a Chandrapur domandandosi se sia stata un'esperienza interessante o noiosa, o perfino se sia stata un'esperienza. Trova difficile parlare delle grotte o individuarle nella propria mente perché il modello non cambia mai e nessuna scultura, neppure un nido d'api o un pipistrello, le distingue l'una dall'altra. In esse non c'è niente, niente. E la loro fama, perché hanno una fama, non si affida al linguaggio umano. È come se la pianura tutt'intorno o gli uccelli in volo si fossero assunti il compito di esclamare «straordinario» e quella parola avesse messo radici nell'aria e il genere umano l'avesse respirata. Sono grotte buie. Anche quando si aprono verso il sole, pochissima luce penetra lungo la galleria d'entrata fin nella sala circolare. C'è poco da vedere e nessun occhio che lo veda, finché arriva il visitatore, 5 minuti, e accende un fiammifero. Subito un'altra fiamma si desta nelle profondità della roccia e affiora alla superficie come uno spirito imprigionato. Le pareti della sala circolare sono meravigliosamente levigate. Le due fiamme si avvicinano e si affannano per unirsi, ma non ci riescono, perché l'una respira aria, l'altra pietra. Uno specchio intarsiato di teneri colori divide gli amanti. Delicate stelle di rosa e grigio interpongono nebule squisite, ombreggiature più tenui che la coda di una cometa o la luna di mezzogiorno, tutta l'evanescente vita del granito solo qui visibile. Pugni e dita balzano fuori dal suolo che incalza. Qui, finalmente, c'è la loro pelle, più fine che ogni tegumento acquisito dagli animali, più liscia che l'acqua senza vento, più voluttuosa che l'amore. Il palpito di luce si fa più intenso, le fiamme si toccano, si baciano, spirano. La grotta è tornata buia, come tutte le grotte. Soltanto la parete della sala circolare è così levigata. I muri della galleria sono rimasti ruvidi e mettono alle prese con la perfezione interna un pensiero successivo. Un'entrata era necessaria e il genere umano l'ha fatta. Ma altrove, più addentro nel granito, ci sono sale che non hanno entrata? Sale mai violate dopo l'arrivo degli dèi? Notizie locali vogliono che queste ultime siano molto più numerose di quelle che si possono visitare, così come i morti sono più numerosi dei vivi, 400, 4.000 o milioni. Dentro non c'è niente. Furono sigillate prima che pestilenze e tesori fossero creati. Se il genere umano diventasse curioso e scavasse, niente, niente si aggiungerebbe alla somma del bene e del male. Si dice che ce ne sia una dentro il masso che oscilla sulla cima del monte più alto, una grotta a forma di bolla, senza soffitto né pavimento, che specchia all'infinito la propria tenebra in ogni direzione. Se il masso cade e si sbriciolerà anche la grotta, vuota come un uovo di Pasqua. Il masso, tutto cavo con me, oscilla nel vento e si muove perfino se vi si posa un corvo, di cui il suo nome e i nomi dei suoi stupendi piedistalli, il Kawadol, montagna del corvo. Queste montagne paiono romantiche, in certe luci e a debita distanza. E una sera, vedute dal portico superiore del circolo, indussero Miss Quested a dire a Miss Derek, tra una chiacchiera e l'altra, che le sarebbe piaciuto andarci, che il dottor Aziz, in casa di Mr. Fielding, aveva promesso di combinare qualcosa e che gli indiani sembrano piuttosto smemorati. Fu intrasentita da un servo che girava col vermouth. Questo servo capiva l'inglese, non che fosse proprio una spia, ma teneva le orecchie aperte, e non che Mahmud Ali lo corrompesse, ma lo esortava ad andare ad accovacciarsi coi suoi servi e poi capitava a passare di là quando c'era lui. Strada facendo, quella storia si arricchì di aggiunte emotive. E Aziz fu sconvolto nell'apprendere che le signore erano profondamente offese con lui e avevano aspettato di giorno in giorno un invito. Credeva che quella sua frase superficiale fosse stata dimenticata. Dotato di due memorie, una momentanea e l'altra permanente, sino allora aveva relegato le grotte nella prima. Ora le traslocò una volta per tutte e spinse la cosa in porto. Doveva essere una stupenda replica di quel tè. Cominciò con l'assicurarsi Fielding e il vecchio Godbole, poi diede a Fielding l'incarico di avvicinare Mrs. Moore e Miss Quested quando erano sole. Con questa astuzia si poteva rigirare Ronnie, il loro protettore ufficiale. A Fielding tutta quella storia non piaceva granché. Era occupato, le grotte lo annoiavano, prevedeva contrasti e spese, ma non volle rifiutarsi la prima volta che l'amico gli chiedeva un piacere. E fece quanto gli era richiesto. Le signore accettarono. Non era una cosa tanto facile, data la quantità di impegni che avevano al momento, ma speravano di riuscirci dopo aver consultato Mr. Hislop. Consultato, Ronnie non fece obiezioni, visto che Fielding si assumeva la piena responsabilità che sarebbero state bene. Non era entusiasta di quel picnic, ma quanto a questo non lo erano nemmeno le signore, nessuno ne era entusiasta, ma il picnic ebbe luogo. Aziz era terribilmente preoccupato. Non si trattava di una gita lunga. Un treno partiva da Chandrapur poco prima dell'alba, un altro li avrebbe riportati per il pranzo. Ma lui non era che un piccolo funzionario e temeva di fare cattiva figura. Dovette chiedere al maggiore Callender mezza giornata di permesso, che gli fu rifiutata perché da ultimo si era dato malato. Disperazione. Nuovo tentativo presso il maggiore tramite Fielding e sprezzante, ringhiosa concessione. Dovette farsi prestare la possateria da Mahmud Ali senza invitarlo. Poi ci fu la questione dell'alcol. Il signor Fielding e forse anche le signore erano bevitori. Bisognava portare whisky e soda e vini. C'era il problema del trasporto dalla stazione secondaria di Marabar alle grotte. C'era il problema del professor Godbole e del suo cibo, del professor Godbole e del cibo altrui. Due problemi, non uno solo. Il professore non era un indù molto osservante. Prendeva tè, frutta, acqua minerale e dolci cucinati da chiunque, e verdure e riso cucinati soltanto da un bramino. Ma carne no, focacce nemmeno per paura che fossero fatte con le uova, e non permetteva che mangiassero manzo nemmeno gli altri. Una fetta di manzo su un piatto anche lontano avrebbe rovinato la sua gioia. Altri potevano mangiare montone, loro potevano mangiare prosciutto, ma sul prosciutto la religione di Aziz faceva sentire la sua voce. A lui non garbava che la gente mangiasse prosciutto. Erano fastidi su fastidi, perché aveva sfidato lo spirito della terra indiana, che tenta di tenere gli uomini in compartimenti stagni. Arrivò il gran momento. I suoi amici lo giudicavano molto imprudente a mescolarsi con signore inglesi e lo avvertirono di prendere tutte le precauzioni per essere puntuale. Di conseguenza lui passò tutta la notte alla stazione. I servi facevano ressa sul marciapiede con l'ordine di non disperdersi. Lui camminava su e giù col vecchio Mohammed Latif, che doveva fare da maggiordomo. Si sentiva al sicuro, persino irreale. Vide avvicinarsi un'automobile e si augurò che ne scendesse Fielding, che lo avrebbe rassicurato. Ma dentro c'erano Mrs. Moore, Miss Quested e il loro servo. Aziz si precipitò incontro a loro con improvvisa felicità. «Eccovi qui, finalmente! Oh, come siete state gentili!» esclamò. «Questo è il momento più felice della mia vita!» Le signore si mostrarono cortesi. Non era il momento più felice della loro vita, ma speravano di divertirsi, non appena superato il fastidio di quella partenza all'alba. Dopo che era stata combinata la gita, non avevano più visto Aziz e gli fecero i dovuti ringraziamenti. «Non occorrono i biglietti, ditelo al vostro servo. Non si danno biglietti sulla ferrovia secondaria di Marabar, è la sua specialità. Venite nello scompartimento e riposatevi un po', sinché non arriva Mr. Fielding». Il treno era arrivato e un branco di subalterni brulicavano come scimmie sui sedili della carrozza. Aziz aveva portato i suoi tre servi e quelli che si era fatto prestare dagli amici e ne seguirono battibecchi sulle precedenze. Il servo delle signore se ne stava per conto suo con un'espressione beffarda sul viso. L'avevano preso a Bombay quando erano ancora turiste. In un albergo tra persone eleganti era esemplare, ma non appena le vedeva in compagnia di gente che giudicava di secondo ordine, le abbandonava alla loro infamia. La notte era ancora buia, ma aveva preso quell'aspetto transitorio che ne preannuncia la fine. Appollaiate sul tetto di una rimessa, le galline del capostazione cominciavano a sognare nibbi invece che gufi. Le lampade erano spente per evitare la seccatura di spegnerle più tardi. Odore di tabacco e rumore di scaracchi si levarono dai passeggeri di terza negli angoli bui. Teste emergevano dalle pieghe delle tuniche. Denti erano sfregati coi ramoscelli di un albero. Un funzionario in sottordine era così convinto che stava per sorgere un nuovo sole che suonò con entusiasmo una campanella. Scompiglio tra i servi. Gridavano che il treno stava partendo e si precipitarono in testa e in coda per fermarlo. Le invitate stavano magnificamente al gioco. non avevano pregiudizi razziali. Mrs. Moore era troppo vecchia, Miss Quested troppo moderna, e con Aziz si comportavano come avrebbero fatto in patria con qualunque giovanotto gentile. Questo lo commuoveva profondamente. Si era aspettato che arrivassero con Mr. Fielding, e invece si erano fidate di restare sole con lui qualche minuto. «Rimandate indietro il vostro servo», suggerì. «Non è necessario, e così saremo tutti musulmani». «Ma sì, è talmente insopportabile! Anthony, potete andare, non abbiamo bisogno di voi», disse con impazienza Adela. La famosa confusione orientale pareva che finalmente stesse per cessare. «Scusatemi», riprese Aziz, «ora devo andare incontro agli altri due invitati». Lo stava riprendendo il nervosismo, perché mancavano 10 minuti alla partenza. Tuttavia, Fielding era inglese, e quella è gente che non perde mai il treno. E Godbole era indù e quindi non contava. Placato da questa logica, divenne più calmo via via che si avvicinava l'ora. Un grido dalla vettura. Il treno si era messo in moto. «Santo Dio!» esclamò Mohammed Latif. Corse verso il treno e balzò sul predellino di una carrozza. Aziz fece altrettanto, fu un'impresa facile, perché i treni della ferrovia secondaria ci mettono un pezzo a darsi importanza. «Siamo scimmie, non preoccupatevi!» gridò Aziz, appendendosi a una sbarra con una risata. Poi un urlo. «Mr. Fielding! Mr. Fielding!» C'erano Fielding e il vecchio Godbole, rimasti fermi al passaggio a livello. Che tremenda catastrofe! I cancelli erano stati chiusi prima del solito. I due balzarono giù dal risciò, gesticolavano, ma a che serviva? Così vicini e tuttavia così lontani. Mentre il treno sobbalzava sugli scambi, ci fu il tempo per qualche parola disperata. «Che disastro! Mi avete rovinato! È tutta colpa delle preghiere di Godbole!» gridò Fielding. Il bramino abbassò gli occhi, vergognandosi della religione, perché era vero, non aveva calcolato bene la lunghezza di una preghiera. «Saltate su, devo avervi con me!» gridò Aziz stravolto. «Bene, datemi una mano!» «Ma per carità, si ammazza!» protestò Mrs. Moore. Fielding tentò il salto, lo fallì, perse la mano dell'amico e cadde supino sui binari. Il treno lo sorpassò con un rombo. Lui si rialzò a fatica e urlò dietro di loro: «Sto bene! State bene, non preoccupatevi!» E poi quelli si trovarono oltre la portata della sua voce. «Mrs. Moore, Miss Quested, la nostra gita è rovinata!» Si dondolava sul predellino, quasi in lacrime. «Avanti, venite dentro, rischiate di ammazzarvi anche voi, come Mr. Fielding. Non vedo niente di rovinato». «Com'è possibile? Ditemelo voi!» esclamò disperato come un bambino Aziz. «Adesso saremo tutti musulmani, come ci avevate promesso». Perfetta come sempre, la sua cara Mrs. Moore. Tutto l'amore che aveva sentito per lei nella moschea tornò a sgorgare, tanto più vivo perché l'aveva dimenticato. Che cosa non avrebbe fatto per lei? Era pronto a morire per renderla felice. «Venite dentro, dottor Aziz. Ci fate venire le vertigini», gridò l'altra signora. «Se sono così sciocchi da perdere il treno, peggio per loro, non per noi». «Ma la colpa è mia», insisteva Aziz. «Sono io l'ospite». «Sciocchezze! Andate nella vostra vettura, ci divertiremo un mondo senza di loro». Non perfetta come Mrs. Moore, ma molto buona e sincera. Meravigliose signore l'una e l'altra. E per una sola preziosa mattina sue ospiti. Aziz si sentì importante e pieno di risorse. Fielding gli mancava, perché era un amico sempre più caro, ma se fosse venuto Fielding, lui sarebbe rimasto in secondo piano. «Gli indiani non sanno assumersi responsabilità», dicevano i funzionari. E qualche volta lo diceva anche Hamidullah. Avrebbe dimostrato a quei pessimisti che sbagliavano. Sorridendo con orgoglio, gettò uno sguardo sulla campagna, visibile appena come un movimento del buio nel buio, poi su nel cielo,